Dimmi Mario, dimmi. Allora ce l'ho con te, Crociani. Sì, parla bene, togli la voce, l'auricolare, il Bluetooth, i fili del cazzo, quello che hai. Non posso farlo, non posso. Ma se non puoi fare, allora vai a fare in culo e non chiamare, scusa. Ma vai a fare in culo tu, pirla. Ma non chiamare, imbecille! Se hai il telefono così, non chiamare! Non chiamare! Non chiamare! Se hai il telefono così, non chiamare, imbecille! Ma perché si litiga sempre sta trasmissione? Ma perché tutto viene trasformato in una rissa? Perché? Ma scusa, ma chiama col telefono così, bisogna, sta testa di cazzo. È una trasmissione incredibile, tutti che urlano. Ma perché? La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. I'm sorry. Secondo te è stato un gioco piacevole? Ma una non lo so. Probabilmente piacevole. Una stronzata. Io posso dirti che secondo me è una stronzata. Probabilmente una stronzata. Se la cosa l'ha offesa, per parte mia, per quello che può servire, le dico che mi dispiace, anche se come dire, la cosa non è riparabile. Però un chiedere scusa non è mai sbagliato alla fine. No, ma io. Scusa accettata. Se la storia è così. La storia è esattamente così. Secondo me, siccome alle volte chiedere scusa non si fa mai male. Per un'ironia che non è stata capita, che non le ho detto. Per un gioco che è stato fatto in un momento sbagliato, va bene così? Sì, una assolutamente. Cosa sbagliata. Parenzo l'ha detto. Sì, io chiedo io quello che chiede scusa in genere, esatto. Sì. Parenzo, ti sei cagato addosso. Ma scusa di che? Ma dai, ma per piacere. Parenzo, ti sei cacato addosso. Ciao Brucia, cazzo sto coronavirus mi sta ammazzando. Io invece gigolo, sono un ragazzo, 23 anni. E l'economia va male, Cruciani mio, va male. Ecco, pure. Buonasera Cruciani. Allora io voglio andare a Zoccole, a Cagni, a puttane. Io voglio andare al Welcome. Eh? È mai stato il Welcome? No, io sono no. Il tallone italiano, no, il Welcome, no. Sono socio onorario e scopo come un animale. Ma se è chiuso Welcome, vai a trovare una zoccola da qualsiasi altra parte. No, chiama non un escort è uguale, per telefono. Perché lì è come entrare in un'area. Mi ti senti un gladiatore nell'arena. Se lo capisci, lo capisci. E mi capisci. Mi può ricordare in chiusura i tre partiti a cui lei ha dato il suo voto? Io sto zitto, prego. Parenzo, facciamo un compromesso storico. Perché? A me la cultura, a me la gnocca. Vorrei mettere 2,000 o 3,000 euro e andare a puttane rispetto al fatto che uno va a Sciara, settimana bianca, quello e quell'altro. Quello l'ho fatto prima, adesso 50 anni si va a Troia, perché bisogna godere gli ultimi spari. Sesso e cocca, sesso e cocca. Fino a che l'uccello tira, si scopa. Ci siamo capiti. Puttaniere di Rimini, ormai protagonista assoluto, assoluto, in collegamento da Roma, David Parenzo, che vorrebbe far chiudere questa emissione radiofonica. Buonasera. Confermo, buonasera. Intanto notizia positiva di oggi, il dottor Fauci, il grande medico americano, dice che tra qualche giorno inizia la distribuzione dei vaccini, che detto essere benissimo, sicuri, benissimo. Il dottor Fauci dagli Stati Uniti. Se lo dice Fauci ci dobbiamo credere per forza? Ci dobbiamo credere per forza? Non è bisogno di crederci, di trust, come dicono gli americani, in God we trust, ma credere in una grande democrazia, qual è la grande democrazia americana, io penso che dobbiamo seguirla più di quella tanto cinese o di quella dei tuoi amici russi. Sei ormai uno di quelli che dice vaccinatevi, vorresti senza anche l'obbligo. Dubbio, ma non vorresti dico anche solo, l'obbligo vaccinale. Io ti ho detto già ma di in collegamento sì, da Padova, ma non dico solo vaccinate, giù, anche chiudere. In collegamento da Padova, Alberto Gottardo, eccoci qui. Eccomi. Io sono per l'obbligo vaginale invece. Sì, cioè, bravo, bravo, a un certo bravo. Punto una donna dovrebbe essere obbligata a darla. No, questa adesso è obbligata a darla e non è obbligata. Pazzo, è una gottardata. Questo ha scoperto la gnocca a 50 vaginale. Anni. Sì, è una gottardata. Questo succede quando uno scopre, diciamo, le donne in tarda età. Sì, questo è vero. Quando uno le scopre in tarda età. Quello che al liceo non ha mai scopato. Su questo ti potrei querelare per diffamazione. Ho le cartuccelle su di te. Ma voglio dire, giù tutti e due. Uno dei protagonisti di giornata, purtroppo è Crisanti. Fauci, esatto. È Crisanti. Senti, Fauci in Italia non sono ancora nessuno. Crisanti. Non sanno la gente, non sa manco chi è che è Fauci. Crisanti è il numero Crisanti. Uno. Si parla di sci con 600 morti, esatto. Non è un paese normale. Esattamente. Io però vorrei dire all'amico Crisanti che anche il tuo amico Bassetti l'ha detto giù, ma non mi interessa, io non sono amico di nessuno. Allora, posso dirti una cosa? Amici miei, è facile parlare dalle vostre cattedre, dai vostri stipendi sicuri, dai nostri culi al caldo, anche i miei, certamente in questo momento noi lavoriamo, ma pensate alle migliaia e migliaia, migliaia di persone, albergatori, gestori di piste da sci, ristoratori, che si devono sentir dire la mattina quando si svegliano in una trasmissione Crisanti che dice si parla di sci con 600 morti. Da un benissimo dipendente pubblico. I morti ci sono e ci saranno sempre, caro Crisanti. Beh, no, i morti ci sono. No, ci ma che vuol dire? Muore un sacco di gente. Ma l'anno non scorso è che uno mica... non scia. Ma che non vuol è che dire? Uno non scia perché ci sono. Ma che stupidaggine, ma c'è una pandemia in tutto il mondo. In Europa fanno la stessa cosa. Anche in Europa sì, bloccano. Ma non me lo deve dire Crisanti che parlare di sci è assurdo. Se ne parla, ma certo invece che è assurdo. Con se una ne pandemia parla. È assurdo. Vanno indennizzati se subito ne parla. Gli albergatori aiaia, e gli viaggi di risalita, Crisanti. Ma purtroppo quest'anno va così. Io rimango senza parole, guardi, che si parla di sci con 600 morti al giorno, guardi, non mi permetta, non, ma certo. Penso che dovremmo parlare a tutte le sofferenze che questo crea a tutte queste persone, no, noi andiamo a sciare per divertirci, poi sapendo che questo creerà un aumento dei contagi e un aumento dei morti, ma io guardi, penso che questo non è un paese normale. No, esatto, la normalità, perfetto. Però voglio dire a Crisanti che però e c'è non un'altra... parliamo più delle scuole chiuse. No, voglio... stai zitto, cioè, un attimo, voglio... scuole chiuse? Stai zitto un attimo. Dai, voglio dire un'altra cosa a Crisanti che conosco. Caro Crisanti, il problema è che quando uno parla di sci, parla in generale della questione di libertà, cioè lo svago non ma è non una c'entra. Cosa secondaria. Un conto è l'economia, non è una un cosa conto l'economia è importante. Lo svago e l'economia è importante soprattutto per lo svago. Ma nessuno cioè, ti nega lo svago. Il problema è che c'è una pandemia, non è che Crisanti è mamma contro mia, lo svago. Ma come sei banale. Pregliasco, ma che dici? Farò il vaccino in diretta. Banale. Senti, sarà originale dire che con la pandemia si l'ultima, va a sciare. Non ho detto questo, ho detto che e allora qual è l'alternativa? Ho detto che è non è uno scandalo. Con la pandemia tutti a sciare. Non è uno scandalo. Originale, non è originale. Uno scandalo parlare forza, di sci tutti non a è sciare. Uno scandalo anche Zaia dice che va chiuso pure Zaia Pregliasco farò il vaccino in diretta dai farò il vaccino in diretta beh meno male bravo ma lei che è in prima linea quindi lo farà? Assolutamente lo farò con un giornale con una visione con un'ufficialità che dimostri perché nel passato quando mi sono vaccinato appunto in TV è venuto fuori che facevo finta che mi iniettavano l'acqua fresca, quindi davvero vaccino lo farò ufficialmente e in modo che bravo, si dimostri bravo. Come ho perfetto. Fiducia in l'ultima, queste opzioni. L'ultima frontiera dei virologi, ormai superato una volta che il vaccino avrà cancellato la discussione magari sul Covid, vaccinarsi in diretta. Anch'io l'ultimo esibizionismo, diretta, l'ultimo esibizionismo dei virologi no, e per degli esperti che, non fa che male. Sono stati in televisione sei mesi, non vogliono perdere il treno ma e l'ultima volta, l'ultima cosa che fanno è questa, il vaccino in diretta. Per testimoniare sei pronto? Che va fatto. Sei pronto Gottardo a quest'ultimo esibizionismo ma sì, da parte degli esperti? Perché dopo l'isola dei famosi faranno l'isola degli immuni con dei virologi per esempio nell'isola che ogni giorno ne nomini uno che poi dovrà uscire e si sputtaneranno tra di loro. Allora, ragazzi, ma meno male che ci sono i c'è medici un piccolo, scienza, c'è un piccolo scandaletto che riguarda Feltri ma riguarda forse anche Parenzo. Mi sono vaccinato facilmente perché mia figlia è farmacista. Fermi tutti. Ma io gli ho fatti tutti i vaccini e avendo una figlia farmacista non ho fatto molta fatica ad avere il prodotto che era necessario. Ne ho fatte due, una per i polmoni e una per un anti-influenzale normale. Non ho fatto fatica assolutamente, ho fatto una telefonata. Feltri ho fatto una telefonata. Beh, insomma, in Lombardia non è poi così semplice vaccinarsi, anche per la le persone anziane. La famosa telefonata però, che allunga la vita come nella pubblicità. Io mi sono messo in coda, no, e l'ho fatto. Non ti sei messo in coda. Non fare come la roba di Maradona perché scompare un altro disastro. Non ti sei messo in coda. Io mi sono messo in coda nella mia ASL pubblica di competenze. Avrai il foglio della prenotazione da qualche parte. Averci tutto, certo. Pubblichiamo tutto, rendiamo noto tutto. Non c'è nessun problema. Fuori le carte. Posso dirvi una cosa? Non voglio suscitare polemiche, però con tutto il rispetto che ho per Feltri, che è anche lui bergamasco, posso dire che è vero che lui ha fatto una chiamata alla figlia, ma non voglio che passi questo messaggio, perché per i pazienti nostri passa il messaggio che basta una chiamata a chi conosce e arriva il vaccino. Non è così. In tutte le farmacie della Lombardia nessuno ha il vaccino, quindi può essere arrivato da qualche altra fonte. Ve lo dico perché anche la mia mamma ha una farmacia in centro a Bergamo ed è la titolare, e anche lei, poverina, aspetta che arrivino i vaccini. Ma se uno ha la figlia farmacista e si chiama Feltri, voi vi stupite che uno riesca a fare il vaccino anti-influenzale? Cioè, i poveri cristi non ci riescono e chiamano la ASL, sono in attesa. Feltri ce la fa. Ma ragazzi, ma di che stiamo parlando? Cioè, vi stupite di questo? No, stupisce il fatto che siccome lui parla sempre, come dire, nel suo giornale, nelle sue cose, eccetera. Del popolo. È il primo che ovviamente, avendo la fortuna di avere una bravissima figlia farmacista, si è fatto inoculare. La cosa drammatica è che non sapeva neanche cosa si è fatto inoculare. No, una roba per il polmone. Come si chiama? Non lo so, non è importante, non lo sa. Parenzo, ma che cazzo chiedi scusa a quello spocchiosetto del figlio di Maradona? La Zanzara. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Chi semina vento raccoglie tempesta, Beppe. Chi semina vento raccoglie tempesta. Grux, mi sa che stavolta l'hai fatta fuori dal vaso. Guarda, io te lo dico da napoletano, non ti mettere male ma mai addosso, perché non è il mio stile. Poi no, ti schifo, certo, proprio, figurati. Più di una sculazzata in faccia non ti potrei dare, tranquillo, perché mi fa schifo. Perché battere scema è un peccato. Però ma sa che stavolta l'hai fatta fuori dal vaso. Ricordati che noi napoletani siamo dappertutto. Camerieri, camionisti. Oggi cruciato. Secondo me stavolta non ti va bene. Mi dispiace se ti fanno qualcosa. Però ma sa, te lo dico per esperienza. Capito? Che non finisce bene per te. Noi napoletani siamo dappertutto. E tu ieri hai chiesto scusa per una cosa di cui non si sentiva il bisogno. La roba che ha scritto il figlio di Maradona ha provocato e ha l'arrivo di minacce nei miei confronti, soprattutto nei miei. Non tollero chi ovviamente minaccia, perché per me è un criminale. Voglio dire solo una cosa. Ma il figlio di Maradona, avendo perso il padre, non ha la mia empatia, ovviamente, perché non lo conosco e non so chi cazzo sia, quindi non può avere la mia empatia. Però gli ho chiesto scusa. Un mongoloide, uno scemo. Ma quello è un problema. C'è una barzelletta ebraica che dice: se uno. Cioè, il problema è suo, non è mio, francamente. Vabbè, allora... Cioè, di chi ti offende, non di chi riceve l'offesa. Quindi il tema è questo: se quell'ironia e quel gioco spiegato mille volte non è stato capito, vuol dire che non è arrivato. Che quindi poi non fa ridere. Rimanderemo in onda. E quindi gli si può chiedere scusa se non è. Pur non avendo commesso nessun problema. Io non ho nessuna intenzione di chiedere scusa per una cosa che non ho fatto. Hai fatto un danno a Cruciani. Bastava dire semplicemente che Ma che cosa c'entra quello? Atteggiamento di rinunciatario tale da apparire meschino. No, ovile. Ma scusa, no, ma scusa, la foto no. Quando lì. Tu capisci? Ma sì, ma perché quando, hai calato quando le tu capisci? Hai calato ma le io non ho calato niente. Nella parte ho spiegato. Della ma quella ragione avevo. Non c'era nessuna ragione. Abbiamo spiegato un gioco che era evidentemente un gioco. Quindi una frase non pronunciata coglione, da nessuno. Punto e basta, dai, se non si basta. È capita l'ironia, vuol dire che c'è un problema nell'ironia. Non in chi non capisce. Questo io dico. Comunque tutto qua. E se uno si è offeso basta dire scusa ieri. Dopodiché chi minaccia è un criminale. Fine. Allora ieri altro litigio tra Mughini ed Auriemma su questa storia di Maradona di cui mi sono rotti i coglioni. Però siccome è una storia, come dire, che ci ha coinvolto anche personalmente. Mughini ha detto un'altra cosa ancora che non c'entra con quella, con lo scherzo. Iniziamo nostro, da Mughini, poi Mughini scontro con detto... Auriemma. Iniziamo da Mughini. Mughini, quelle parole non beatificanti di Maradona, no, le ho pronunciate per l'appunto in un contesto in cui tutti assieme dicevano che Maradona poteva permettersi tutto, che ogni cosa sua era una provocazione alla Maradona e quindi una provocazione tutto sommato elegante. Era persino una provocazione, ha detto uno dei partecipanti, un ragazzo intelligente, il gol fatto con la mano era una provocazione così come il gol successivo. No, secondo me il gol fatto con la mano è una porcata e il gol successivo è una meraviglia. Ecco. Allora in questo contesto io mi sono limitato a dire che la vita di quest'uomo non è stato un capolavoro. E poi Auriemma contro Mughini. Mughini, io non ti dico, non ti chiedo di che tu chieda scusa in questo caso, perché so che non ne saresti capace, ma almeno potresti tacere. Chiedo scusa a te, non no, Maradona, Maradona. Perdonami, tu non vuoi essere interrotto. Potresti tacere, perché non sei stato in grado di rispettare il più grande calciatore della storia, nemmeno dopo morto. C'è uno che fa di professione il giornalista che parla alla radio, in televisione e dice agli altri di tacere semplicemente perché è morto un calciatore. Vi rendete conto della follia? No, cioè bisogna tacere. Bisogna tacere. Auriemma dice bisogna tacere col corpo caldo. Ma ragazzi, ma chi cazzo siete per dire che bisogna tacere? Ma andate a fare in culo. Ricordati che anche in guerra esiste l'onore delle armi da riconoscere al nemico riverso sul suo algido sacello. Invece tu hai dato la sensazione che non vedevi l'ora di accanirti come un avvoltoio sul suo cadavere sfatto, come tu hai detto in precedenza. Ma questo è pazzo, cioè Auriemma è pazzo completamente. C'è uno, un avvoltoio, semplicemente ha detto la sua su Maradona. Ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Ma siete completamente fuori di testa. Vi ha dato di volta il cervello. Il cervello ci sono. È perché Giampiero non le legge le robe sul web, perché gli fa schifo, lo considera una fogna. Ci sono minacce gravissime nei suoi confronti. A parte la mia figura e quella sua messa nei cassonetti dell'immondizia, messa addirittura con le tombe. C'è un coglione che fa l'illustratore, che ha fatto le tombe mie di Mughini, e uno che piscia sopra. Ma ragazzi, voi non vi rendete conto della follia? Io me ne sbatto i coglioni e mi diverto pure in alcuni momenti, ma i veri violenti sono questi. Non chiedere scusa al figlio di Maradona, cazzo, sono come hai fatto ieri, vergogna. Sono due temi diversi. Nemmeno in questa circostanza luttuosa ti sei limitato ad esprimere un giudizio sul valore della persona. Limitarsi doveva limitare, sei capito? Accanito ulteriormente la libertà nei di espressione di Napoli, vergogna. E di, dei napoletani che o sui social o quando ti incontrano per strada ti apostrofano come meriti, come e meriti. Dove tu non porti rispetto. Beh, non porti rispetto. Non porta rispetto. Ma chi lo deve dire porta rispetto? Ma questo è pavo. Per Auriemma la libertà di espressione ormai è una roba che passa in secondo. Di fronte a Maradona, di fronte a non so a che cosa, e tutto passa in secondo piano. C'è la geografia. Ma, che, no, ma qui non siamo in Venezuela. Scherzo, no, Auriemma, non siamo. Questo. No, non siamo nulla. In Venezuela, chiaro? Non siamo in Venezuela. Paese che amava molto zior Maradona, in particolare Chavez. Ma vaffanculo, va. Giovanni, provincia di Foggia, vai. Giovanni, dimmi. Giovanni, questo è un coglione, un camionista. Il solito camionista coglione, sì. Il coglione sei tu, scemo. Ma guarda, guarda sti imbecille, senti sti imbecille, ma la voglio prendere questo, io stasera con sti imbecille, Giovanni della provincia di Foggia, il camionista fascista, sì. No, sa, ma al di là che se la prende che... con te di ma solito. Ma al di là del camionista, questo è un povero imbecille, ma comunque è bene che sia il primo a chiamare. Buon imbecille, prego. I due imbecille, il buon samaritano. Samaritano. Posso dirle che si dice samaritano. Giovanni già non si sente nulla, per cui o fotti, o le tue stronzate si sentono bene oppure non valgono, già non valgono nulla, ma va bene, qui va benissimo. In più se non si sentono zero, capito? Ma se tu come cominci a dare dei coglioni alle persone, scusa. Ma tu sei un idiota, dirle che si dice samaritano, non sammaritano con due M, basta una. È chiaro che sei un idiota o no? Sei no, un idiota. Una M, samaritano, una M sola, non fermo due. Là, adesso ci ricolleghiamo con te, facciamolo sentire sti imbecilli. Impara l'italiano. La zanzara. Giù, se volete parlare al telefono con la zanzara da fallo 800240024 oppure se volete mandare un facile messaggio con la WhatsApp 393 71 71 701. Allora, Francesco da Firenze, voglio metterlo a confronto con Antonio da Vicenza, perché Francesco. Hai sentito Antonio da Vicenza cosa ha detto, no Francesco? Sì, vabbè, è un coglione totale, nel senso, cioè, tu metti assieme le due categorie, Veneto e camionista, non può che uscire un coglione totale, nel senso, io voglio chiedere ad Antonio da Vicenza se lui sa anche solo come si scrive Ramadan, visto che prima ha parlato di Ramadan, ma questo non sa neanche come si scrive. Tu sei un coglione, hai capito? Tu sei un coglione, devi fermarti adesso al baretto tuo e sbronzarti come fai ogni sera. Poi ti fai un pochino da qualche piccione nel parcheggio, ti addormenti nel camion e domattina riparti. Lorenzo, i trasportatori? Sono gente che lavora e te fanno magna pure a te, che sei un grandissimo pezzo di merda, perché se io potevo scegliere te facevo morire di fame, a te tutta la famiglia tua, capito? Pezzo di merda, lecca culo di Telesi e lecca culo di Cairo, perché se tu non lecchi il culo non lavori, a differenza dei camionisti che se fanno un culo come una capanna e lavorano e se guadagnano da magna onestamente, non a lecca il culo all'altro, hai capito? Bastardo comunista, pezzo di merda. E stai in campana, che io so di Roma, che se ti incontro ti ficco pure sotto, te passo sopra col camion, bastardo. Vieni tu. Francesco da Firenze, come cazzo ti permetti di offendere i veneti, brutto mangiataralli di merda? Ragazzi, si stanno accanendo. Questo era il riepilogo, il riassunto di Francesco da Firenze, certo, contro il camionista di Vicenza della settimana scorsa. Grande, però di questa settimana, non ricordo più. Voglio farvi risentire alcune parole pronunciate. Francesco da Firenze è un eroe normale. Quello allora, che noi chiameremo un eroe normale. Giù tutti e due, dire... quando sto parlando sì, vi prego di mettere giù. Quanto un attimo. Veneto, allora. Però volevo difendere un attimo la categoria. È chiaro che dire i veneti. Perché c'è una grossa differenza tra i veneti e i napoletani. I veneti, che hanno una cultura paragonabile a quella di Napoli, e non si incazzano se gli dai dei coglioni in maniera generalizzata. Come i napoletani ti avrebbero già di Napoli, cosa ti avrebbero no, già dello certo, stesso sì, livello, la Repubblica Serenissima dello stesso livello, e ti avrebbero già minacciato di morte, avrebbero già minacciato di morte Francesco da Firenze. Invece il veneto medio capisce che è uno scherzo e quindi ci passa sopra tutto. Cioè, sono più cioè stai aggravando la situazione, cioè sono meno permalosi dai. Allora ragazzi, tanto per come dire, per ravvivare la questione, che di suo già piuttosto calda, Io voglio farvi risentire le parole di Giampiero Mughini, così diciamo condannate no, dai napoletani. No, le faccio risentire, poi facciamo risentire anche quello che abbiamo detto noi, tutto facciamo risentire, no, perché non mi pento di nulla, non mi pento di nulla. Ma non c'è nulla da pentirsi. Era una descrizione reale. Era una descrizione reale. Se lo hanno detto un povero uomo, l'hanno definito un povero uomo, un poveretto, a me mi hanno detto di tutti i colori, cioè un uomo senza umanità, un uomo che non... Queste sono le parole pronunciate da Mughini. Sentite, sentite, sentite, sentite. Perché dobbiamo dire che non soltanto lui è morto a 60 anni, ma era sfatto, frantumato e disperato da anni e anni e anni. Ma un essere sfatto da se stesso, dalle sue abitudini, eccetera, eccetera. E d'improvviso lo mettiamo un santo qui con tre. Ma no! È di una retorica anche meridionalista che io non la posso sopportare. Questo è, ditemi cosa c'è. Io sono d'accordo, uno può essere anche contrario, ma può ricevere minacce di morte per questo? La tomba di Mughini con la gente che piscia sopra? Quello che gli dice "oh scemo, l'handicappato, l'altro, il figlio di Maradona che lo insomma, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Dai, su, dai, Giovanni dalla provincia di Foggia, forza. Questo non vuol dire nulla. Sì, e quelle cose lì scritte dal figlio di Maradona hanno rinfocolato altre minacce, questo è il punto fondamentale. Giovanni, provincia di Foggia. Ma infatti si tratta di sinestesia. Ma il figlio di Maradona non è il figlio di Einstein, no, quindi... Giovanni o ti si sente o non ti si sente, due sono le cose. Se non ti si sente te ne vai a fare il culo. No, ma che cazzo vuoi, mi stai a sentire? Dimmi. Mi senti? Sì, dimmi. Allora, sono un tifoso rossonero, Poggio e Milan, simpatizzando di tutte le squadre. Sì, ma chi se ne frega? Tranne una che sta in Piemonte. Sì, ma non e me ne frega niente, Giovanni. Di che cosa vuoi parlare? Perché non state zitti? Perché non avete aperto la bocca quando il signor Armando Maradona era vivo? Abbiamo parlato di Maradona, ma stai zitto, imbecille, basta, mi sono scocciato. Federico dalla provincia di Treviso, questo non si sente un cazzo. Federico, provincia di Treviso, dai, forza. Parenzo, sei solamente una merda. Perché? Calma. Perché, buonasera, Federico? Perché? Dimmi. Allora, quel essere schifosissimo che è di nome David Merdenzo, lui parla male delle puttane. Io ci godo, al posto tuo. Federico, stai calmo. Quindi crea anche una brutta nomea per il popolo veneto, che non è tutto come lei, ovviamente. Lei è un idiota, anzi è un deficiente, dal latino deficio, cioè mancante. Le manca qualcosa al cervello. Stasera vado anche a puttane ancora alla faccia tua, Federico. Senza mascherina. Ma non ho capito, Federico, tu puoi fare quello che vuoi. Complimenti. Io ce l'ho con chi va, non con le prostitute, è diverso. Dunque, io ce l'ho Federico, con chi va. Dunque con Federico ce l'hai. Sì, assolutamente, con personaggi. Noi Federico, assolutamente, sì, corretto. Vabbè, ma tu puoi scopare, ma tu puoi scopare. Sì, ma tu puoi scopare, ma perché lo devi definire? Ma non ho capito perché lo devi definire coglione, non ho capito, Federico, spiegami. Se a lei le piace così. Non ho capito perché lo devi definire coglione, Federico, spiegami, qual è il punto? Perché è contrario alla prostituzione, per quale motivo? Spiegami. È una nullità, Beppe. Non ci siamo. Comunque io continuerò ad andare, non me ne frega un cazzo. Renato da Genova, vai a fare in culo. Renato da Genova, dimmi Renato. Allora, dimmi. Prima cosa, Maradona, il figlio di Maradona reagisce così perché gli avete toccato il padre. Quindi per il figlio di Maradona nessuno non è un ha toccato nessuno. Ed è il padre. E quando tu ti senti libero di esternare dei pareri, lui si sente libero di difendere il padre. E chi ha detto il contrario? Le pisciate addosso, le scopate, i vibratori, tutte le stronzate che dite. Siete andati sopra il padre. E lui va risposto. Ma chi è andato sopra il padre? Ma chi? Cretino, chi? Imbecille, allora, chi? Cretino sei tu, cretino. Povero sei imbecille. Tu. Okay. Povero imbecille. Numero due, Maradona. Povero imbecille. A me non dà fastidio per nulla. A me non dà fastidio per nulla, cretino. Imbecille. Non l'ha mai piegata. Voi la piegate al primo sponsor che passa, hai capito o no? Che sta dicendo questo? Ma qual è il sponsor? Problema? Qui non c'è nessun problema di sponsor. Tu, Parenzo, tu, la differenza signore. Di. A differenza signore, di Cruciani, qui... tu ti nascondi. Io semplicemente non c'è un problema. Ma che dice questo qua? Non c'è un problema di sponsor qua. Maradona, aspetta, Maradona non è mai sceso a patti con nessuno. Ma tu sei completamente cretino. Gottardo, con qualcuno, da qualcuno la pigliava la cocaina o no? Se vogliamo essere camorristi, gli fornivano con qualcuno a patti, scendeva a patti. Per sua scelta, ma certo, ma per me è libero di farlo. La testa la chini quando devi farti un bel pippone. Un bel pippone, quello che c'era lui. Scusami, cosa hai detto? Il pippotto, quando devi farti qua due, tre, quattro righe come si faceva lui, insomma, non è che te la fai a testa alta la riga, specialmente se la droga te l'hanno portata i camorristi. Lo dice Gottardo, è bene ricordare che questo è il tribunale perché? Perché me la spieghi? Perché mi hai dato del cocainomine? Ma no, a te, cretino. No, capisci un cazzo? Vedi che non capisci assolutamente un cazzo. No, parlava di Maradona, non hai capito. Purtroppo non hai capito ancora una volta. Purtroppo io ho capito benissimo. Ma non ho capito benissimo. Torniamo a una cosa. Stiamo parlando di una morte, della morte di un calciatore. Sì, certo. E dovete accettare il fatto che non è un calciatore. Che cosa? Non è un calciatore. E chi dice niente? È un uomo che ha promesso, appunto, che ha mantenuto. Ma chi lo in dice? Un territorio. Ma cos'è la geografia? Che cos'è? In un territorio. Ma che cosa sei? Il biografo ufficiale? Il biografo. Ma chi sei? Il biografo? La geografia. Che non hanno mai mantenuto. Ma chi sei? Lo strimpellatore? Chi sei? Lo strimpellatore di Maradona? Chi sei? Illustrascarpe? Illustrascarpe? Illustrascarpe? Chi sei? Illustrascarpe? Ma sei Illustrascarpe? Scusami, Sciuscià di Maradona, ma ti pare normale morire a 60 anni? Ti pare normale morire a 60 anni? Avrà avuto un ruolo in tutta la cocaina che questo si è tirato? Avrà avuto un ruolo? E quindi cosa significa? Avrà avuto un ruolo che un ex atleta è morto a 60 anni? O no? Certo, giustissimo, benissimo, bene. Allora si può dire che la cocaina gli ha rubato degli anni? Si può dire che la cocaina ha rubato degli anni? Assolutamente. Allora non rompere i coglioni. È diverso dal vomito che avete tirato fuori. Ma quale vomito, cretino? Ma non sai niente. Ma non sai. Quel vecchio che si veste come Arlecchino, che purtroppo ha l'Alzheimer, quindi non è neanche da commentare. Scusa, chi ha l'Alzheimer? Quello scemo con i capelli bianchi, tutto vestito. Questo ti colorato. Faccio portare in tribunale, ti faccio portare via tutto, pure il buco del culo, pure i peli del buco del culo ti faccio portare via. Hai dato dell'Alzheimer a Mughini, hai detto. Non so neanche chi sia. Ma vai a fare il culo. Ecco il coniglio. Dillo esplicitamente che è Mughini che ha l'Alzheimer. Dillo. Sai, coraggio, te la fai sotto, te la fai sotto, coniglio. Coniglio che non sei altro, coniglio. Dillo esplicitamente. Voi che siete partiti con Sciuscià e cocainomani, voi mica io. No, i cocainomani, come lo diceva di se stesso. Lo diceva di se stesso, lo diceva. Questo lo ha detto anche lui nella famosa intervista a Kusturica, però. Come no? Come no? Come no? Lo ha detto in una famosa intervista, scusami, in una famosa intervista a Kusturica. Lui è perfetta. Qual è? Non fa nessuna piega, lui si è levato degli anni di vita. Benissimo. Questo è quello che abbiamo detto noi. Il resto. Che ha detto il signore in televisione, che avete detto voi negli altri che non abbiamo detto cazzo, trasmissioni, scherzando, perché io vi ho sentito e allora? Assolutamente avete scherzando. Dovete accettare il fatto che le persone reagiscono così, io non accetto perché qualcosa niente. Di sbagliato avete detto. Ma vai a cagare tu. Capito? Tu Renato, no, Maradona, no, Maradona, sbagliato, no. I patti con nessuno, qualcuno che non è mai sceso a patti con nessuno. Ciao Renato, arrivederci, ciao. Simone da Genova, dai Simone, dimmi, Simone. Pronto? Dimmi. Ciao Giuseppe. Io vorrei capire che cazzo fa nella vita quel pezzo di merda di Francesco da Firenze, visto che ne ha sempre per tutti, ne ha per i ristoratori, per i baristi, per i camionisti. Vorrei capire che cazzo fa nella vita. Quello è un gigante, un lavoratore. Oltre a salvare le vite umane, perché so che lavora nell'ONG, quindi salverà un mucchio di vite umane, però vorrei capire come vive, di cosa vive. Aspetta, per fortuna torniamo subito. La Zanzara. Renzo, no! No e no! Non devi chiedere scusa! Mi sembri come quelle donne che menate dal marito si sentono in colpa e chiedono scusa loro che ci prendono le botte come se... Non devi chiedere scusa, per quale motivo? Quello non ha capito, ha ragione Cruciani. Io non devo chiedere scusa a nessuno. Se c'è qualcuno che deve chiedere scusa, qui è il figlio di Maradona. Ho usato il termine mongoloide in tono dispregiativo, dimostrando di essere anche un grande cafone. E siamo qui, ragazzi. Prima di tornare a Simone da Genova e altri ancora, vi devo far ascoltare però un audio. Questo ascoltatore dice una cosa, una vera e una falsa. Quella vera è che il figlio di Maradona si qualifica per quello che è, per aver usato ovviamente quel linguaggio che ho contestato su tutti. Dopodiché, chiedere scusa non vuol dire calare le braghe. Io ho detto chiedo scusa se qualcuno si è offeso, ma non è che posso dire ho fatto male a farlo. Non ho mai detto una roba simile. Allora, fermi tutti. Dico al figlio che ha avuto un lutto, che ha avuto un lutto, non giustifica tutti gli altri. Non giustifica quelli che fanno le minacce, neanche le sue. Ma al figlio che ha avuto un lutto gli posso umanamente chiedere scusa. Allora, c'è un audio che circola, che fra poco faremo ascoltare, che insomma è abbastanza imbarazzante per il presidente del Consiglio Conte. È un audio che risale all'inizio di novembre, fine ottobre. Audio? Da dove arriva? È una persona che vuole mantenere il suo anonimato. Ma è una persona. È un audio che viene diffuso. È stato diffuso come se fosse un appello, diciamo. Un appello a fare chiarezza. Diffuso. Certo, un appello a fare chiarezza, una testimonianza. Bisogna verificarne la veridicità. Assolutamente. Questa persona cita un'altra persona che avrebbe visto il presidente del Consiglio e la sua fidanzata dentro un ristorante al centro di Roma molto noto, nei giorni in cui era proibito andarci. Cioè, mentre l'Italia non poteva andare al ristorante, nella sostanza, lui invece da 6 giorni sarebbe andato in un ristorante con la sua fidanzata in una saletta privata. Se fosse vero, ovviamente, fosse vero, sarebbe molto grave, non solo per il ristoratore, che però fa il suo mestiere. Io li ho sempre appoggiati, i ristoratori che aprono contravvenendo alle regole. Però se le regole le fa il presidente del Consiglio con i DPCM, lo stesso presidente del Consiglio va nella saletta privata contravvenendo alle regole, sempre che la storia sia vera, sempre se sarebbe abbastanza clamoroso, no, David? No, o no? Certo, sarebbe incredibile. No. Sarebbe quasi da dimissioni. DPCM fatto. Dice agli italiani: non si può andare al ristorante, tu vai al ristorante. No, non c'ho mai dubbio. Sarebbe una cosa per la quale, ad esempio, negli Stati Uniti sarebbero ti farebbero un culo così. Sentiamo questo audio di questa signora che abita, credo, a Roma. Ma che ha saputo da un'altra, è una cosa abbastanza chiaro quello che è successo. Ovviamente bisogna vedere se è vero o no che lui era lì con la sua fidanzata dentro un ristorante. Sarebbe gravissimo non solo per tutti i ristoratori che ovviamente stanno soffrendo, ma soprattutto sarebbe una beffa per quelli che si vedono piombare addosso il DPCM e poi il presidente del Consiglio va al ristorante, sempre se la storia è vera, sempre se la storia è vera. Ieri sera, 31 ottobre, ore 20:30, in zona Piazza Montecitorio, dove c'è una enoteca con all'interno un ristorante stellato molto famoso, c'era a cena il signor Conte, sicuramente con la sua compagna e forse con altre persone. Una mia amica che abita lì vicino, cercando parcheggio per parcheggiare il suo Twizy che ha bisogno della colonnina per essere ricaricato, ha visto che nella carica dove lei di solito utilizza, perché abita lì vicino, c'era la macchina del nostro presidente Conte. A quel punto, insospettita dal fatto che la macchina si trovasse lì a quell'ora, essendo vicina a questa enoteca famosa e conoscendone il proprietario di questa enoteca, è entrata, ha visto la proprietaria e appena ha visto la proprietaria le ha detto di andarsene via. E lei ha detto: come devo andarmene via? Ma tu devi essere chiusa, perché a quest'ora il tuo locale deve essere chiuso o comunque funzionare solo per l'asporto. Chi c'è dentro che non devo vedere? E lei continua a dire: Bea, per favore esci, Bea, perché questa mia amica si chiama Beatrice, per favore esci, non trattenerti, perché non puoi trattenerti. In quel momento in cui discuteva con la proprietaria, ha visto la fidanzata del nostro presidente Conte uscire dalla stanza dove stava mangiando e recarsi in bagno. Subito dopo questa scena è stata reintimata ad uscire e, se, come se non bastasse, sono arrivate le persone della scorta di Conte che l'hanno messa alla porta. Questo è quello che è successo ieri sera, 31 ottobre, con un decreto fatto dal signor Conte, il quale è il primo a trasgredirlo. Vabbè, questa è la cronaca, diciamo, derelato, si direbbe. Cioè, noi abbiamo, per far capire a chi ci ascolta, noi abbiamo una signora che in quest'audio, diffuso non si sa bene da chi, diffuso da ambienti politici, non lo so, da qualcuno, diffuso da qualcuno, abbiamo una signora che è amica di una, sì, la quale amica, parcheggiando la sua macchinetta, ha visto una macchina riconducibile alla scorta di Conte e la fidanzata di Conte, cioè non ha visto Conte, la fidanzata. Questo è, beh, poi è stata mandata via dal ristorante. Inchiesta giornalistica, questa è la scorta. Ora, dove vuoi che sia. Ora sarà vicina. Allora, possiamo dire una cosa, se Conte è andato con la fidanzata dentro il ristorante a tavola seduto a farsi servire da quei signori di un ristorante di Roma, la cosa è grave, punto e basta, dai. Su questo nessuno, il sindaco di Roma Marino si è dimesso per molto meno. Simone da Genova stava parlando di Francesco da Firenze, grande protagonista delle ultime puntate. Allora Simone, cosa hai da rimproverare? Dimmi. Da rimproverare che vorrei sapere che siccome attacca tutti, ce l'ha con i camionisti, ce l'ha con i ristoratori, ce l'ha con le partite IVA, ce l'ha con tutti quelli che lavorano in sostanza. Vorrei capire lui che cazzo fa. Che cazzo oltre fa di mestiere? Oltre a salvare un mucchio di vite, di vite umane. Non lo so, Francesco, che fai di mestiere? Eccolo qua, Francesco, che fai di mestiere? Eccolo qua, il fenomeno del paesello. Senti, volevo dirti, se domani comincio a far girare un audio in cui dico che a te piace prenderlo nel culo da Salvini, vale come notizia, la dai anche questa? Ho detto che non è una notizia confermata, rincoglionito. Bravissimo. Se puoi dire pure che è un falso, fai la rettifica, Cruciani. Ma quale falso di cosa? Non c'è da dire un falso, no. Bravissimo. Se vuoi che questo audio è un falso, fai la rettifica. Ma l'audio non può essere un falso, la persona l'ho sentita pure io, l'audio esiste, è vero, l'audio esiste, è vero. Cruciani, non fare il coglione, se viene fuori che questa cosa ma è quale? Falsa, ma quello cosa che dice è falso? Signora è falso. Se viene fuori diremo, la signora ha detto, la signora ha capito una cosa per un'altra, perché non è che ha detto che erano sicuramente là dentro. Conserveremo questa tua dichiarazione. Non ti preoccupare, bravo, signor professore. Per quanto siamo riguarda qui questo stracciacazzi da Genova, tranquillo, che io lavoro molto più di lui, sicuro. Ti dico tranquillamente dove lavoro, coglione. Ti dico tranquillamente dove lavoro. Coglione, 2-3, fenomeno. Sei partito dal paesello. A parte che coglione, fallo rispondere. Simone, devi chiedere una cosa. Io non ho nessun problema a dirti. Vivo a Firenze da 11 anni. Ho vissuto qui quasi quanto ho vissuto nella mia città natale, che è Taranto. Quindi, se ti interessa la mia biografia, non ti preoccupare, vieni qui, ti ripasso il culo e mentre ti ripasso il culo ti faccio la mia biografia passo per passo. Detto questo, ho preso una laurea triennale e una magistrale. Attualmente sono il responsabile degli uffici stampa in un'agenzia di comunicazione. Vabbè, non c'è bisogno di specificare. E con la partita IVA faccio l'attività da libero professionista come giornalista. Tu invece sei un coglione talmente stupido che non sa fare neanche la secondo me. Tu sei talmente coglione da come parli e da quello che dici, si capisce che sei così coglione che non sai neanche fare l'ago con il bicchiere, secondo me. Testa di cazzo da Genova. Allora, perché non te ne vai a fare in culo invece? Come mai ce l'hai con tutti? Che non hai mai lavorato un giorno nella vita tua, sicuramente. Aspetta, fermo Simone, perché cosa io non ho capito ancora. Ma ti hanno fatto il culo dei ristoratori, ti hanno scopato la moglie perché ce l'hai a morte con i ristoratori, con gli evasori, ce l'hai con i bambini. Ma hai un senso dell'umorismo raffinatissimo, ma sei veramente brillante te. A Genova siete tutti così coglioni, si vede. Sì, però tu hai detto tu hai detto dei ristoratori che sono degli evasori fiscali, amico mio. Cioè, tutti quanti degli evasori fiscali. Vergogna, Simone, come cazzo fai a dire che sono gli evasori? E che c'hai nei confronti dei camionisti poi? Che c'hai nei confronti dei camionisti? Sono in assoluto, secondo me, l'anello di congiunzione che manca per spiegare come si sia passati dal Neanderthal al Sapiens. Fermo là, fermi tutti, 30 secondi e poi torniamo. Fermo là, fermi tutti, fermi, non me ne andate, nessuno. Nemmeno la zanzara. Salvatore da Como, camionista, un'altra delle categorie prese di mira da Francesco. Che cosa hai da dire a Francesco, Salvatore? Ciao Cruciani, ciao. Dimmi, tu sei anche fascista, mi sembra. Un super fascista. Prima che quella merda si metta a parlare, innanzitutto la tua Laura se la picca nel culo. Ma che c'entra, scusa, Laura. Il rispetto ai camionisti e ai veneti che fanno grande questo cazzo di mamma paese. Lui è un bastone di merda. Calma. Che adesso sento un cazzo e mezzo solo per succedere a Laura. Calma. Ed è il presidente di sta coppola di minchia. Aspetta, aspetta, Salvatore, Salvatore. Francesco, calma. Allora, lui ha detto, ha una opinione, Francesco, dei camionisti che è piuttosto chiara. Dice che sono sostanzialmente dei trogloditi. Vero, Francesco? Questa è la sostanza poi della tua... Non ho detto che sono dei trogloditi, perché i trogloditi sono un pezzo di genere umano. Secondo me i camionisti sono, come ti ho detto, l'anello mancante che, di cui abbiamo bisogno per spiegare come ad un certo punto nella storia di questo pianeta siamo passati dal Neanderthal al Sapiens. Tu dici... questo coglione che ha appena parlato, per favore Cruciani, siccome io non conosco lo scimmiesco, mentre tu oramai hai sviluppato una certa competenza in questo linguaggio, per favore fagli sapere questo. Io con i fascisti non parlo, io ho imparato le arti marziali miste soltanto per ripassarmele i fascisti, non parlo con i fascisti, prendo appuntamento e gli spacco le corna, Salvatore, merda! Ma perché, scusa? Cosa inutile? Non si capisce, però, Salvatore, tu cerca di avvicinare meglio il telefono. Tu dici cosa inutile. Ma è una scimmia, c'ha ragione, cosa... Francesco, però è una scimmia. Cosa inutile significa cerchio di spettatore, merda, letame, perché una persona non può parlare così, una categoria che si spacca il culo. Giusto, questo. Però scusi, Salvatore, impari a usare il telefono almeno, Salvatore. E mi stupisco pure che Parenzo lo difende, che lui certo. È Veneto. Allora, ma no, scusa, Francesco è... Cerca, no, scusi, signor Salvatore, può però almeno imparare a telefonare, altrimenti diventa complesso dialogare con lei. Grazie, grazie. Scusi, signora scimmia, per piacere, impari ad utilizzare l'apparecchio telefonico che è stato inventato tanti anni fa. Salvatore, fermo un attimo ancora. Allora, Francesco, però qui c'è una questione, al di là del linguaggio. Quando è stato inventato l'apparecchio telefonico? Però chiediamolo al signore. Del linguaggio di Salvatore, c'è una cosa, però, Francesco, è una parola grossa, Cruciani, però c'è un linguaggio. C'è un elemento. Il linguaggio tiene significato e significante. Sì, però entrambi. C'è però una cosa fondamentale: che tu hai attaccato l'intera categoria, che, come dice Salvatore, si spacca la schiena. Allora di qualcosa. Uno può essere fascista, può essere fascista o no. Cruciani, si spaccano la schiena cosa? Si spaccano la schiena? Beh, è un lavoro pesantissimo. Sì, dai, certo. Francesco, è che tu fai le generalizzazioni. Sei il solito terrone che viene poi al nord o al centro d'Italia a lavorare. Vedi che belle che sono le generalizzazioni. Vedi che belle che sono le generalizzazioni. Il classico che non ha mai lavorato un cazzo manualmente in vita sua, mentre il camionista si fa manualmente. Vedi che belle le generalizzazioni. Vedi che belle. Vedi che bello. Guarda, a parte gli scherzi, ti posso dire una cosa: se pensi di stuzzicarmi con questa cosa, non ci riuscirai mai. No, ti posso dire una cosa. Sei classista. No, tu ridi delle persone. Mi fai parlare un attimo e ti dico una cosa. Posso, ti dico una cosa. Hai parlato per 7 minuti? Guarda, io quando ho finito le scuole superiori non avevo né i soldi né la voglia per studiare. Ecco la storia strappalacrime del terrore. Sono venuto vicino a casa tua e per 3 anni a Castelfranco Veneto ho lavorato per una ditta che faceva pulizie nei condomini. E non hai imparato a rispettare i veneti, tanto che li consideri tutti dei coglioni. E non hai rispettato, non rispetti le persone che per prima ti hanno dato un lavoro. Nessuno mi ha dato niente, io ho lavorato e il lavoro non mi è stato concesso. Grazie ai veneti, mi fanno cagare, perché mai come quando sono stato in Veneto, quando ti hanno dato un lavoro, non ti facevano schifo. Ho fatto le valigie e sono andato via, Gottardo, d'accordo? Sì, però sei talmente orgoglioso di essere terrone che ti targhi da Firenze. Il proletariato non le prendo, Gottardo, perché tu sei il nipote di un sindaco della DC che non ha mai lavorato un giorno della vita tua, Gottardo, non ne prendo, hai capito, Gottardo? grande sindaco di Padova, caro mio. Il piano, Gottardo, perché io non ho capitale sociale ereditato come te, grazie al quale campo. E neanche umano, tutto perché insulti tutti a prescindere. Mi sono spaccato la schiena, Gottardo, d'accordo? Sì, ma dovevi spaccarti la testa e aprirtela un po', Gottardo, perché tu fai solo che generalizzazioni, caro mio. La mia testa, non ti preoccupare, tu di io quello che ho me lo sono lavorato. Generalizzare, dire che i camionisti sono delle merde. Fermi tutti. Perché mio nonno era un nulla tenente. Fermi tutti, Salvatore, Salvatore Zappatore, il nonno Zappatore. Salvatore da Como, per concludere. Salvatore, si sente o no? Si sente o no, Salvatore? Ti sento, Cucio. Aspetta, aspetta. Guardate, è un king, perché gli ha messo la minchia in bocca a questo palabutto. Mi frutono le mani, con questo Francesco di merda. Che arriva tutto frunchio da Taranto, arriva in Toscana e offende le persone. Una categoria. Beh, non è che sta parlando il Lord Byron. Lord Stamming, ha scritto, te scemo. Non è che sta parlando Lord Byron in questo momento. Lord Byron. Scusa, perché sei fascista tu, Salvatore? Spiegami un attimo, ricordami un attimo. È una scelta di vita per essere provocatore questo sistema di me, contro questo sistema, cioè, di me. Ci vorrebbe sua eccellenza, secondo puoi te? Dire, ci vorrebbe, non lo so cosa ci vorrebbe per questo paese, però. Però sua eccellenza, però io lo faccio per combattere tutto questo schifo che si vede. Ma che c'entra sua eccellenza, però? Che c'entra sua eccellenza? Tuo amico Lord Byron. Sua eccellenza. Io ammiro la politica, la politica, la filosofia, ammiro del fascismo. La filosofia. Capito, Francesco, hai capito? Capito, Mussolini. Francesco non può parlare perché non capisce manco il significato essere patriota della sua nazione. Patriota, patriota di con questo palabutto si arrenderebbe subito a due colpi di pistola, scappa, se ne vai a Taranto, mamma. Francesco, vai, dimmi di Francesco. Luciano, io ho difficoltà a rispondere a questa persona, sì, perché veramente non capisco cosa dice. Quindi, francamente, sì, dice che non sei un patriota. Dice che non sei un patriota. Non sei un patriota. Assolutamente, io non me ne frega un cazzo della patria. Quindi ha ragione. Assolutamente, le cose che detesto di più nella mia vita sono inni e bandiere nazionali. Quindi, su questo ha perfettamente ragione. Per il resto, gli puoi dare il mio numero quando vuole. Passa da Firenze e ci vediamo. Sì, parlando in italiano, però. Firenze con i fascisti non parlo. Dopodiché anche lì, per quanto riguarda invece il nipote del sindaco della DC, anche lui quando vuole gli posso dare qualche lezione di lavoro, quando vuole. Sì, certo. D'accordo? Confrontiamo. Guardate, è inutile che fai l'eroe proletario e poi sei il nipotino del sindaco della DC. Guardate, è inutile che fai l'eroe proletario, bello mio. Sei il nipote di un sindaco della DC, molto potente. Non ho trovato niente su di me, certo, è stato di parlamentare con i voti, sai, con le preferenze, fai poco nel proletario, certo. Guardando tu, no, poco certo. Nero e proletario, io sono stato, perché io ho lavorato mio. Davvero, io sono stato straccione davvero. Ti faremo una medaglia e ti proporremo al presidente della Repubblica come cavaliere. Beh, del lavoro. Sicuramente ho più titolo di te, che non hai mai lavorato in vita tua. Scusa, scusatemi un attimo, lavoro, Francesco, è perché non hai letto bene ancora la biografia del nonno dello zio di Gottardo, perché altrimenti avresti altre cose da dire. Io nulla, perché no, Cruciani, la so, è che come sai non ho soldi da buttare in avvocati, ecco. Ecco, vedi che si caga già addosso. Fermi si caga tutti, già addosso. Ciao. La Zanzara. Giuseppe, ma sai che la mia ragazza mi ha sempre praticato il CPC? Però dargli un nome è importante, è meglio. Da oggi sarà il CPC. Grande. Ciao Giuseppe. Ho fatto un sogno. Cristel Bulgari che soffoca Parenzo con il culo in faccia. Beh. E dopodiché li piscia nel naso. Beh. Allora, per rasserenare gli animi che qui abbiamo toccato... Sì, è una trasmissione veramente incredibile. Ragionavo mentre ascoltavo questo straordinario scontro tra l'ottimo amico di Firenze e il buon Gottardo su questa questione. E anche altri cagnonisti. Sai che non sapevo che era nipote dell'ex sindaco di Padova. Non lo sapevo, dai. Sto scherzando, dai. Non sapevo che in questa trasmissione alberga pure. Alberga, vedi che termine che ha usato? Alberga pure il nipote dell'ex sindaco di Padova, satrapo democratico. Perché satrapo? Perché satrapo poi? Vabbè, è stato allora, un sindaco, ragazzi, delle grandi opere. Allora, città. Mentre ma per perché satrapo? Per rasserenare... fammelo riascoltare. No, non riascoltare. Dopo. Satrapo democratico. Per rasserenare gli comunque animi. È una trasmissione pazzesca. Sai che ogni sera dice chissà oggi che sberla. Per... cioè, è l'unica. È, ognuno di noi rischia ogni sera. Rischia niente in realtà. Beh, però una vagonata di insulti, minacce. Oggi è toccato a te, nipote del certo. sindaco satrapo democristiano. Certo, sì. Allora, ragazzi, lo diceva con disprezzo. Democristiano lo diceva con disprezzo anche perché non abbiamo avuto il tempo di parlare del maglione clero, di Cruciani. Diossina all'ADC, sangue abbiamo... e morte. Capito? Era così, era cloro. E non abbiamo parlato del maglione di Cruciani che oggi compie sei giorni di seguito indossato da Cruciani. Con grande orgoglio. Allora, ragazzi, nel frattempo, ma perché non colleghiamo l'ex sindaco di Padova a Gottardo a questo punto? E chiediamo all'ex sindaco se anche lui, che... come l'adorabile nipote, pratica quelle cose sessuali di cui il nipote chiede. Prima di dimettermi da questa trasmissione, voglio invitare il nipote a parlare di figa. L'ex sindaco satrapo di Padova ti do un'informazione. Lo dico io la parola. Era presente, no? Parenzo era presente in prima fila alla presentazione del libro di Cruciani che abbiamo fatto. Perché i democristiani erano delle però, bronze coerte. Scusa un attimo. Un attimo, posso dire una cosa? A questo punto direi che l'invito a Severino Gottardo a parlare di figa alla sua età è già fatto. Allora, ragazzi, intanto a proposito di sesso, leggevo. Ma quindi lui è qua perché è stato segnalato dalla DC. Cioè la DC Mi è arrivato Zitti. Sono amante di Cruciani. Zitti, mi è arrivato un libro nel frattempo oggi. So che mi arrivano anche dei libri. Un libro che è molto bello, Davide. Si chiama Io Ero. Ero sta per eroina. Di Nick Fibonacci. Non ti piace? Che cazzo ne sai? Io non mi leggo Nick Fibonacci. Un racconto incredibile della storia di uno spacciatore drogato negli anni '80 in Italia. No, ma è un ottimo libro di Mondadori. Ecco la marchetta. No, non è nessuna marchetta. Mi è arrivato per caso. Però sfogliando, arrivo al capitolo 10 che si intitola Sesso. Senti che cosa dice, no? È importante per la droga, per il demone scimmia, per tutti quelli che ci chiamano, che sono magari, no, hanno qualche vizietto. La droga è un imperatore assoluto che non accetta di dividere il trono con altri piaceri, altri sballi, altre ossessioni. Per questo, probabilmente, la dipendenza esclude il sesso. O meglio, lo addormenta, come fa con tutte le altre pulsioni che ti porti dentro. Anestetizza ogni aspetto della tua vita. Il peggio ma anche il meglio e ti libera dalle emozioni per renderti schiavo. Tutti i ragionamenti fatti a posteriori, ovviamente, scrive lui che è stato tossicodipendente, spacciatore, eccetera. Quando sei tossico non ci rifletti, vuoi solo stare bene nel modo che sai. Tra tutte le droghe, l'ero è la più subdola, perché ti lascia intatte, io questo non lo sapevo, ti lascia intatte, non essendoci mai fatto di eroina, oppure non ho mai indagato, perché ti lascia intatte le premesse ma ammazza l'epilogo. Hai continuamente delle erezioni, anche da Guinness, altro che Viagra, ma non vieni mai. È possibile immaginare una condanna più atroce? Io questo francamente è una cosa che non sapevo, cioè l'effetto dell'eroina è un effetto, secondo questo tizio qua, un effetto addirittura non particolarmente lesivo dell'erezione e in più non vieni mai. Forse non vieni mai è una cosa che mi avevano detto, cioè con l'eroina non vieni mai, ma per carità non provate perché l'eroina è una cosa terribile. Carmelo da Padova, anzi prima però vorrei chiamare una persona perché Parenzo, ieri Gottardo ne sa qualcosa, è esplosa una polemica in Salento perché un sindaco di una città che si chiama Martano, provincia di Lecce, ha fatto una pubblicità. Martano. C'è l'incubo della Martani. Dici Martano. Appena dici una cosa, Marta, già sì, ti viene l'orticario. Città di Martano, provincia di Lecce, ha fatto un manifesto, una cosa su internet. Non passare da stupido, a favore della mascherina, dell'uso della mascherina. Non passare da stupido. Capirei se ci chiedessero di mettere una pigna nel culo. culo. Ma che linguaggio è? Ma è semplicemente una mascherina davanti a naso e bocca. Io appoggio pienamente al 100% la comunicazione di questo sindaco, perché chiaramente la parola pigna nel culo è una roba per dire, non è una cosa fastidiosa, come lo è una pigna nel culo mettere la mascherina, chiaro, dice il sindaco. Come un gatto sulle non palle, si capisce perché l'arcigay locale, ma perché i signori dell'arcigay lascia perdere la comunicazione, tu la disapprovi, io la approvo, ma non è questo il punto. L'arcigay locale, amico mio, l'arcigay locale se la prende, lo sai perché? Perché questa frase qua vuole le scuse ufficiali, perché definisce questa frase una comunicazione che sottende una denigrazione di chi pratica il sesso anale. Ripeto, una denigrazione di chi pratica il sesso anale. La pigna nel culo? La pigna nel culo denigra chi lo piglia nel culo, secondo loro. Ma di cosa stiamo parlando? Ma uno piglia un uccello nel culo, non una pigna. La pigna è chiaramente dolorosa. Però dai, scusa, a proposito di questo, perché non hai fatto cenno dell'eurodeputato dell'estrema destra? Giusto, bravo, hai ragione. Ne parleremo dopo. Non hai voluto parlare. Di che partito era? Di che partito? No, faceva le oggi. Era partito di Orban. Con 25 uomini, una mucchiata a Bruxelles con 25 uomini, di che partito era? Di Orban. Per chi di votava? Orban. Di Orban. Per chi votava? Per chi votava? Era il partito di Orban. Era il partito di Orban. Sì. E come dice Dago Spia, più sono omofobi, più gli piace il cazzo. Sì, questo è il commento. Questo è vero. Io non questo dico è vero. Mai parolacce. Non questo dico è vero. Mai parolacce. Quasi però mai. Ha fatto bene a fare un'orgia, secondo me, nonostante i divieti. Più sono omofobi e più gli piace il cazzo, dice Dago Spia. Allora, non ne hai parlato. Eurodeputato, fondatore del partito di Orban, sì, nel gruppo di promotore, estrema destra, promotore di leggi anti-gay, promotore di leggi anti-gay, però non è sicuro che lo prenda in culo, no, non è sicuro se lo prende era in culo, nella no, mucchiata con 25 uomini, no, poi è... ha detto chiedo scusa, mi dimetto, a mia moglie, mi e dimetto, mia figlia, sì, perché famiglia, perché figlia, la eccetera, famiglia è sacra. Ah, si è dimesso dal Parlamento europeo, però ma si è dimesso, credo, si è dimesso dal Parlamento europeo, ma credo sia incompatibile, come è incompatibile questa trasmissione con Radio 24, è incompatibile quel deputato con i valori di Orban. Com'è che si chiama il capo Salento? Oh, com'è che si chiama il capo della Pippi? Si chiama Pippi, non mi ricordo più il cognome. Pippi, Todesco, qualcosa del genere. Todisco, sì. Chiamiamo, dai, sti cazzi, uguale. Pronto? Oh, amico mio, sono Cruciani da Radio 24, come stai? No, guarda, non rilascio nessuna dichiarazione. Pippi, scusami un attimo, voglio capire solo una cosa. Perché è discriminatoria questa cosa qua? No, ne parliamo tranquillamente, non ho nessun problema. Guarda, io con te. Un linguaggio triviale usato da una pubblica amministrazione, secondo noi non è un linguaggio corretto perché va a urtare delle sensibilità. Quando tu hai scritto una comunicazione ufficiale che sottende alla denigrazione di chi pratica il sesso anale, perché questa comunicazione denigra il sesso anale? Dire espressioni come vattene a prendere nel culo oppure infilatevi una pigna nel culo è un'espressione triviale che trae la sua origine da istanze culturali resistenti della società italiana che affondano le radici nel patriarcato. No, però scusami, è una cosa un po' troppo, secondo me la stai mettendo troppo complicata la cosa. Il sindaco voleva dire solo una cosa. Mettersi la mascherina non è una cosa dolorosa e oggettivamente la pigna nel culo è una cosa dolorosa, punto e basta. Si potevano usare tantissime altre espressioni, perché non dire un dito nell'occhio? Sì, e invece d'accordo, fare riferimento. Ma non c'è un riferimento all'omosessualità, però, se uno ci vede. Ma non stiamo parlando di omosessualità. Beh, scusa, stiamo però è l'arcigay che parla. Parlando l'arcigay, è chiaro che si parla di quello. Stiamo parlando della stigmatizzazione di del sesso anale e in particolare della stigmatizzazione del sesso anale da passivo. Questo è una battaglia. Ma non è vero! Ma scusami un attimo, io posso dirti che non è vero. Io sono un grande stimatore del sesso anale. Sono un grande amico di tantissimi omosessuali. Non penso che sentendo. Non c'entrano gli omosessuali in questo discorso. Tu sei l'arcigay, però non è che sei un'altra cosa. Nella società e nella cultura italiana tutto ciò che ha a che fare con qualcosa che entra nel culo è qualcosa di scomodo, doloroso, oggettivamente inferiore, eccetera, ma eccetera. Ma guardi, l'avverto però, scusi, che il sesso anale è stato sdoganato ormai, cioè una cosa di pratica abbastanza comune. Lo dice a me. Lei è passivo o attivo di solito? Il problema, questi sono, queste sono informazioni che lei non riguardano. No, riguardano la mia sfera sessuale privata. Ma attenzione, noi non ci siamo sentiti offesi, abbiamo semplicemente detto che secondo noi non è una comunicazione istituzionale giusta. Certo, ma c'è è una denigrazione per chi fa sesso anale. Lei deve immaginare, parlo in maniera molto cruda, io non so che radio siede, non so che la Radio 24 ma c'ha ragione questo signore, ma un sindaco non parla in modo così triviale. Ma che roba è un sindaco? Cioè, lei deve immaginare una comunicazione istituzionale fatta in quel modo. Lei deve immaginare se noi dovessimo andare davanti alle scuole e dire: non vi stiamo mettendo una pigna nel culo, ma vogliamo parlarvi dell'omofobia. Come prenderebbe l'opinione pubblica questa cosa? Non sta, infatti, non stavano parlando di quello, stavano parlando di un'altra cosa. Il paragone, no, appunto, ma la pigna nel culo fa male benissimo o no? La domanda che faccio a lei, che è esperto della materia, ma la pigna nel culo fa male o no? Sì, la risposta è sì. La pigna nel culo, io non so se ci sono persone che utilizzano questa forma di piacere sessuale. Probabilmente no, io non glielo so dire. Però oggettivamente la pigna nel culo, la pigna è dolorosa, c'è poco da fare. Una pigna, come la immagino io, nel culo, per carità, poi ognuno può fare quello che vuole nella vita. Che conversazione è? Cioè, lei sta difendendo, chi usa questi sono. No, ma non dica stronzate, per favore, io non sto difendendo. È vero, quelli che usano le pigne per mettersi nel culo, che va benissimo. Per favore, allora, questo linguaggio usato in maniera impropria viene tirato fuori da una storica denigrazione verso chi nel sesso anale ha la funzione passiva. Quindi questo è una battaglia culturale. Ma perché che io le assicuro tempo che chi lo prende in quel posto capisce, ma no, è una mia follia. Io sono d'accordo su tante cose, ma questa è una follia. Chi lo prende in quel posto, cioè chi lo prende dietro, non si può sentire offeso dal fatto che un sindaco usa l'espressione una pigna nel culo. Ma non si dovrebbe sentire offeso soltanto chi fa il sessionale, si dovrebbero sentire offesi tutti da quel tipo di comunicazione. Ma scusi, ma perché uno, lei ha detto uno passivo, una persona passiva, una persona, io ne conosco tante, le persone passive non si mettono le pigne nel culo, chiaro? Ok, ma lei deve prescindere dalla pigna, deve andare alla radice. Ma quello è la pigna nel culo. Deve andare alla radice. Io conosco persone che si infilano qualsiasi cosa. Vabbè, le pigne no. Le do anche un'altra notizia. Questo succede anche all'interno della comunità omosessuale. All'interno della comunità omosessuale, molte volte, e questa è quindi anche una battaglia che noi facciamo all'interno della comunità omosessuale. Molte volte i cosiddetti passivi nel rapporto sessuale vengono considerati in una posizione inferiore rispetto agli attivi ma questo qua è nelle vostre dinamiche vita, ma queste sono le dinamiche vostre, chi se ne frega perché lei dice vaffanculo? Cosa significa vai a fare in culo? Vai in una condizione che ti dà disagio, è questo quello che dice. Vai a prendere nel culo è un'espressione vaffanculo, che cosa significa? Però Pippi, quando uno infila qualcosa di doloroso nel culo, ma come può essere anche in bocca, come può essere un'altra parte? Non lo deve dire il sindaco, però questo è il tema vero, sua ragione. Ma chi se ne frega di cosa uno ma fa? Ma ho capito, ma proprio non è un'espressione, ma io non capisco. Ma è un'espressione brutta in bocca a un sindaco. Amministrazione, certo, questo linguaggio, certo. Questo è il punto. Noi ma certo che si può stoganare, certo che si può usare l'espressione una pigna nel ma culo un sindaco. No, ma assolutamente no. Ma perché non posso usare l'espressione? La comunicazione istituzionale deve essere. Ma perché un sindaco? Noi ogni giorno parliamo di doppia anali, di sesso anale con grande libertà. Dunque non ho nessun pregiudizio. Oggettivamente posso essere in grado tranquillamente di dire cazzo, ragazzi, questa cosa qui fa male come una pigna nel culo. Oggettivamente è una cosa e che si può usare. E noi possiamo con la stessa libertà dire che questo tipo di linguaggio non ci piace perché ma qual è che ma non è discriminatorio nei confronti passivi ribellatevi, passivi di tutto il mondo, ribellatevi a questa cosa. Abbiamo la libertà di poter esprimere un concetto, abbiamo la libertà di poter esprimere un concetto culturale, la discriminazione fondato su un ragionamento e non su un tweet, scusami, lasciate la libertà di esprimere un concetto ma certo, culturale, certo. Lasciate, grazie. La discriminazione nei confronti dei passivi, la discriminazione nei confronti dei passivi, le dico, non l'ho mai sentita in vita mia. La discriminazione nei confronti dei passivi. Certo che non l'ha mai sentita in vita sua perché la nostra cultura è intrisa di patriarcato. Non la discriminazione dei passivi. La discriminazione dei passivi. Siamo arrivati alla discriminazione dei passivi. Se lei mi manda una mail, io le invio uno studio serio, serio, sì, che tratta del minore distress che subiscono i passivi omosessuali, sì, e della discriminazione che subiscono i passivi omosessuali. Ma ti rendi conto che quello che stiamo dicendo, dai, non, sì, è la stupidaggine detta da, è una stronzata, da un presidente. Posso dire, è una stronzata. Secondo lei, secondo una noi è un tema molto serio. È una stronzata. È un tema molto serio. È un tema molto serio. L'espressione è una pigna nel culo, è un'espressione popolare che non per questo significa che sia un'espressione corretta, che non discrimina, noi, i passivi, non discrimina, vabbè, i passivi stanno bene lo stesso, chiaro? Scusi, arrivederci. Avete il suo pensiero, il mio pensiero è un altro. Grazie, arrivederci. La Zanzara. Crux, dopo un anno rispolvero il vecchio giubbotto, controllo nelle tasche e ho trovato 50 euro. Crux, subito a puttane. Un anno fa mi sono pagato una chiavata. Volevo ricordare a Parenzo che qualsiasi donna, indipendentemente dall'etnia e indipendentemente dalla fazione politica, qualsiasi donna adora, durante il rapporto sessuale, sì, essere chiamata troia, non magari c'è dubbio, anche con una mano sul collo o sui capelli. Non c'è Parenzo dubbio, mi dispiace, ma funziona così. No, è possibilissimo, caro Parenzo, ti devi arrendere di fronte, ragazzi, a questa evidenza, che nel senso c'è anche, e si usano anche espressioni di questo tipo, per carità, momento serietà, però momento serietà, momento semi serietà. Non hai ricordato cosa è successo a un eurodeputato? Ma l'hai detto tu, l'hai detto tu. Ah, io non ho sentito, l'ho detto, dico tante cose. Un europarlamentare di Orban, deputato della che destra, è stato pizzicato. No, quando dici destra, non della destra, della destra di Orban, della S della destra, pizzicato in un'orgia con 25 persone. Non si sa se erano tutti uomini, dicono orgia gay, scusa, moglie, figlia, gli elettori che l'avevano scelto e si è dimesso dal Parlamento europeo. Grande tema. Gli elettori l'avevano scelto perché aveva proposto di mettere nella Costituzione la sacralità titoli della famiglia. Spia, titoli da gospia? Più sono omofobi e più gli piace il cazzo, che mi sembra una grande sintesi per una parte della destra europea. Perché della poi destra sta cosa qua europea, che a destra è pieno di froci, questa è la realtà. Cioè, è pieno di froci che lo pigliano in culo. Come no? Ma è storicamente così. Però ti faccio ascoltare una persona che ha da dirti due cose. Ha da dirti due. No, devi stare concentrato, perché una persona che si chiama Daniele Interrante, che è qui collegato con il signor Interrante. Non lo conosco. Buonasera, signor Interrante. Buonasera. Buonasera, io vi deluderò questa sera. Non parlerò di sesso, cercherò di non dire parolacce, ma proverò a esprimere. Che cosa vuoi dire? Ma si chiama questo Interrante. Daniele Interrante. Il mio dissenso nei confronti di Parenzo, che stimo tanto, ma soprattutto quando fa interviste, per esempio a Davigo, Colombo, nei vari programmi. Ma è quello che ha fatto il film Vita Smeralda? Sì, va bene, ha fatto tante cose, Domando come da settimane e settimane non si parli del caso dell'OMS, cioè dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Oggi l'ho visto apparendo a Tagadà, insomma c'è da parlare di Ranieri Guerra, che prima era il direttore del Ministero della Salute, adesso è il direttore aggiunto dell'OMS. Che fa i copia e incolla dei piani pandemici. Prima parlavate di crisanti e dei morti giornalieri, che sono 600-700. Qui parliamo di 50-60 mila morti. E allora? Parliamo di un'inchiesta della Procura di Bergamo che chiama, report, chiama Ranieri Guerra, numero 2 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, per 5 ore interrogato la sera stesso, il giorno dopo, e da Lilli Gruber, non so se ci fosse stato, e Parenzo non dice niente, né e Parenzo domanda, non dice neanche a chiedere, ma cosa le hanno domandato? Sì, ma il punto qual è? Il punto qual è? Il non capisco punto la critica, è però il giornalismo, ed è per questo, e lo voglio ribadire, ogni volta lo ribadisco, io non sono mai diventato giornalista, sono pubblicista, ma perché non sto appunto, ma non ho capito qual è il punto, però gli ordini di chi? Ma gli ordini di chi? Italiano è vergognoso. Ma di che parla? Ma di cosa parla? Parlo che non, ma come fate, si permette? Non fate le domande. Ma quali domande? Tutte le domande facciamo, ma di chi parla? È lo scandalo più grande della storia. Ma infatti c'è l'inchiesta della Procura, italiana. Di che parla? Ma voi quando vi trovate davanti a Ranieri Guerra, scusi, io glielo chiedo volentieri. Ma guardi, che posso, il tema. Posso, a parte che c'è anche perché... a parte che c'è anche il segreto istruttore, perché se uno viene interrogato, no, c'è il segreto istruttore. Punto, c'è dimmi qual è il punto. Dimmi qual è il punto. Ragazzi, qual è il punto? Come qua... si fa a invitare a parlare con una persona come Ranieri di Guerra senza chiedere cosa è successo? Ma io non lo so, non c'ero in quella trasmissione. Ma non mi faccio insegnare il mestiere da Vita Smeralda qua. Ma non mi faccio insegnare il mestiere da Vita Smeralda qui, dai. Scusami, Daniele, scusami. Sì, vabbè, masticazzi, Daniele, scusami un attimo. Allora, la cosa fondamentale è che te mi devi insegnare il mestiere Vita Smeralda qua. Allora, innanzitutto togliti la voce. Innanzitutto togliti la voce o l'auricolare, il cazzo che è. No, neanche l'auricolare. Io volevo chiedere a Parenzo, non voglio insegnare niente a Parenzo, che lo ripeto, stimo e lo osservo. Che cos'è che avrebbe nascosto? Che cos'è che avrebbero nascosto? Che cos'è che hanno nascosto? Che cos'è che hanno nascosto? Che cos'è che hanno nascosto? Nessun giornalista parla di questa inchiesta e non si pongono le domande su una causa, su una probabile causa che sarebbe, parlo sempre al condizionale perché non vogliamo, vabbè, allora... che potrebbe essere la causa di migliaia e migliaia di morti, cioè il copia e incolla di un piano pandemico fatto nel 2006. Ma guardi che c'è un articolo anche di Repubblica. Ma io lei... mi chiedo perché in ma guardi che c'è un articolo di anche niente. Di Andrea Tornago su Repubblica. Ma chi se ne frega? In cui ma no, siccome dice, siccome questo qua viene a dirci che non esiste il giornalismo italiano, legga Repubblica, inchiesta a Bergamo sui morti Covid, scontro tra procure e omesse. Io non c'ero quel giorno in quella trasmissione. Io non c'ero. Ma io le faccio questa domanda. No, ma scusa, c'è un'altra cosa, Lei mi è molto simpatico, lei mi è molto simpatico. D'accordo che il giorno dopo l'inchiesta di due settimane fa. Ma chi se ne frega? Chi se ne frega? Voglio capire. Guerra vada Lilli Gruber che amo, adoro e con cui uscirei più volentieri con la Gruber che con Belen. Non pure. Ponga una domanda a Ranieri Guerra sul piano pandemico e sul fatto di aver occultato una relazione fatta da persone che lavorano dentro l'MS. Cito un nome. Zamboni, cioè, tu che ha ricevuto anche pressioni. No, dallo però scusi, caro. Non scusi, una domanda. Scusi, sulle pressioni, indagherà allora, la procura, tu, se ne assume la responsabilità. Siccome tu parli sempre di modello. Allora, scusami, Daniele, siccome tu parli spesso di modello Italia, l'Italia era stata praticamente considerata dall'OMS totalmente inadeguata ad affrontare questo rapporto. Perché è stato occultato. Questo rapporto è stato occultato. Ma è gravissimo, infatti. No, ma infatti noi siamo molto influenti. Non è vero che non contiamo un cazzo. Ma c'è la procura di Bergamo che sta indagando. Perché c'è un'inchiesta di perché non ne parli? C'è Repubblica. Ma io quando cazzo se mi invitano perché ne parlo? Ma non mi faccio insegnare il mestiere dalla Vita Smeralda lì. Perché non sollevate il problema? Perché non ne parli mai, Parenzo? Perché salti sempre l'OMS? In questo momento. Perché salti sempre l'OMS? Perché sei sempre al guinzaglio del governo? Di Speranza e di tutti quelli all'OMS. Ma io ti porto via quella casa in Umbria che hai da milioni di euro. Comunque mi sta scrivendo in questo momento Massimo Giletti. Sì, attenzione. Sì, dimmi. Non so se posso leggere il messaggio. Leggi. Allora, stai zitto, Daniele, stai zitto. Zitto, giù, dimmi. Che ti sta scrivendo Massimo Giletti in questo momento? Che ti sta scrivendo? Però dopo la pubblicità te lo dico. No, adesso dimmelo. Dimmelo. Qua non funziona adesso così. Dopo la pubblicità te lo dico. Dimmelo, dai, funziona subito. No, bisogna creare il suspense. Ma dove hai parlato la televisione tu? Dai, che c'è la tensione bella. Dopo la pubblicità. Dai, che c'è altra roba Massimo dopo, Giletti. Dai, ma chi se ne frega di Giletti? Dimmi che cosa dice. Dimmi che cosa scrive. Dopo te lo dico, dimmi che cosa se scrive. Si può leggere, se si può leggere. Ma come? Va a far culo, chiedi il La Zanzara. Luciani, volevo lanciare un sondaggio con tutto il popolo della Zanzara. Qual è il sondaggio? A vedere se anche a voi capita che magari state tutto il giorno in ufficio, vi eccitate come delle bestie pensando alla vostra ragazza, appena tornate a casa dice mamma mia ti apro in due come una mela, e poi una volta che metti la chiave dentro al buco della serratura che cala tutta la voglia, non te ne viene più da fare niente. A me è capitato più di qualche volta. Sì, succede. Non so a voi. Allora, Parenzo, si può capire che cosa ti ha scritto Giletti oppure no? Si può rivelare che cosa ti ha scritto? Dico, dice ragione interrante. Bisogna fare più domande, quindi me ne occuperò. Bisogna fare più domande su che cosa? No, cioè, bisogna... no, su tutta questa questione dice che se ne è, paga... che se ne è parlato poco. Dice ha ragione Interrante, tre punti esclamativi. L'unica cosa che dimentica il signor Interrante, l'amico ex tronista o tronista, non lo so, Interrante, è che in realtà. Vabbè, che c'entra leggesse... questo? Cosa ha fatto? No, cosa non ha fatto? Io dico tronista, il tronista pubblicista Interrante, ma va benissimo, io adoro i tronisti. Però dico, se lui avesse letto ad esempio Repubblica. O ma avesse... cosa c'entra? Sta dicendo un'altra cosa, però, dai, no, su. No, sta dicendo che scusami, la tua maestra, io non c'ero. Non lo so, non l'ho visto. La cosa più clamorosa. Qual è? Il numero 2 dell'OMS è stato chiamato dalla procura di Bergamo 5 ore. Gli altri che ma c'è il segreto istruttorio su quello. Aspetta, dipendenti esattamente come Ranieri Guerra, il numero 1. Sai cosa ha fatto per non fargli andare a testimoniare? Lo status di diplomatico. Hanno fatto l'immunità diplomatica, quindi sì, questo è vero, certo, c'è scritto dappertutto. Ha pagato le spese a Ranieri Guerra per andare a testimoniare e ha vietato a coloro che hanno fatto. Sì, ma cosa uscirebbe fuori da questa cosa? Cosa uscirebbe fuori? Ma come cosa uscirebbe fuori? Dillo. Uscirebbe fuori? Devono i magistrati devono ascoltare Zamboni e coloro che hanno fatto il reportage e l'inchiesta sul piano pandemico e sulle regole deficitarie. Sulle mancanze dell'Italia, sulle mancanze dell'Italia, sulle mancanze. Questo è oggetto dell'inchiesta della procura, infatti. Di che parli? Stiamo dicendo la stessa cosa. La procura di Bergamo vuole capire per chi di chi sia la responsabilità della mancata chiusura dell'ospedale di Alzano. E se c'era o no il piano pandemico aggiornato in Italia. Si è afferragliato l'asso, cioè immunità diplomatica, cioè, per due grave, volte certo. E l'Italia ha dato e l'Italia chissà perché ha dato 10 milioni all'OMS. Questo cosa c'entra? Il ministro Di Maio sapevano perché li hanno convocati due volte. Vabbè. Il signor ciao Daniele, ne riparleremo. Ciao. Molto bene, molto bene. Ti sei preso la ripassata da Daniele Interrante. Sì, ti sei preso la ripassata. Il cronista che mi spiega come fa il giornalista. Ti sei preso la ripassata da Interrante. Non fai domande sull'OMS. Ma quando mi invitano, non fai domande sull'OMS. Scusami, cosa me ne frega me dell'OMS? Come al solito al soldo dell'OMS. Perché tu citi sempre l'OMS. Lo dice io l'OMS. Io sono a favore delle organizzazioni multilaterali. Chiusa l'OMS. Il multilateralismo è determinante per combattere la complessità. Un ospite che sta passando un momento particolare perché il suo mestiere soffre di una non so se in questo momento proprio sta soffrendo. Simona fa sostanzialmente la prostituta, l'abbiamo già avuta ospite trasmissione. Credo che sia addirittura con dei clienti, grandi ascoltatori della Zanzara, ma è specializzata solamente in pompini, giusto Simona? Ricordiamolo a tutto il mondo, ricordiamolo. Buonasera a tutti, ciao Simona. Come andiamo? Io non sto soffrendo per niente, perché gli uomini ovviamente hanno sempre desiderio e voglia anche in questo periodo, quindi non noto cambiamenti assolutamente. Ah, non ci sono cambiamenti, cioè tu hai l'afflusso è sempre lo stesso, il flusso del pompino è sempre lo stesso. Il flusso del pompino è sempre lo stesso, ma come può cambiare, ragazzi? No, pure secondo una me non può cambiare. Una pratica così meravigliosa. Devi sapere, caro Parenzo, devi sapere che il pompino, ti spiego questo, è una roba che nel Medioevo veniva considerata una pratica abietta, impura, amorale. Fenomenologia. Certo, nel Medioevo era considerata una pratica abietta, impura, amorale. Nessuno oggi perché era svincolata dalla procreazione. Sì, ma nessuno oggi dice ste follie. Come non... no? Qualcuno ancora oggi considera il pompino una pratica abietta. Poi in realtà ma io non sono tra questi. Il blowjob nasce in ambito gay. Vabbè, ma adesso cos'è la stock quark? Cosa no, fai ma questo adesso? È per dire la storia in prima serata che era Rai Storia. Scusi signora, lei sa che cos'è l'hammer? No. È una fellazio rumorosa, cioè chi pratica il sesso orale che emette dei gemiti di piacere e dei vocali gutturali. Allora lo pratico anche io. Cioè come fa? Beh, si fanno dei rumori con la bocca. Che tipo di rumori fai? Fammi capire che tipo di rumori fai. Ma guarda. Dai Simona, fammi capire. Ma non si possono descrivere al telefono, bisogna provare. Come sono? Come sono? Dai, li so fare io, li saprei fare pure te. Ma non ho niente nella bocca per poter fare questi rumori. Metti qualcosa, ma un attimo, fammi capire. Adesso, ma no, ma ce l'avrai un fallo, qui. No? Ce l'avrai un fallo lì. Ma certo che ce prendi un secondo, fammi questa grande cortesia. Non mi pare il caso, guarda. È se il caso, provare, è la trasmissione. Prima o poi verrò. Prima o poi verrò. Prendi intanto, mentre parlo con un ascoltatore, mi prendi un fallo di gomma? Ti aspetto un secondo. Ti prego, sei saresti la regina di questa trasmissione. Prendimi un fallo prima di gomma. Poi verrò. Mentre parlo con Cruciani. Alex da Roma. Parlo con Alex da Roma, poi torno da te, ma voglio trovarti con un fallo perché mi devi fare un rumore tipico di Simona Nappi. Da Roma. Alex da Roma, aspetta, Alex da Roma. Alex, tu conosci Simona la Pompinara? Sei mai andata da lei? Alex, dimmi, sei mai andato da Simona te? A me i pompini mi fa mia moglie. Sì, ho capito, però no, ci sono anche le prostitute. E vado a mignotte. Ma perché non va a mia amica? C'è niente di male. Ci vuole a mignotte. Come va tutto il puritano che dice a me va a mignotte. Ma non ho capito, non ti ho detto niente di strano. Non è che ho detto che sei un mafioso. Non è che sei un mafioso. No, ma quale mafioso? I mafiosi ne esistono, amico mio. Posso dire una cosa? Scusi, non esistono. I mafiosi non esistono, una parola grossa. Come se te ne corri, devi un infarto, però. Se tu sei nervoso, ci devi un infarto. Amico mio, noi ci nervosiamo per 2 ore e mezza. Saremo già morti a questo punto. Comunque in Italia ci stanno tu infami. Sì, uno è Brunotti. Uno è Brumotti e l'altro chi è? L'altro chi è? Dimmi. E che ne so? Fa pure la rima. È Brumotti In Italia ci stanno d'infami. Brumotti, poveraccio, fa le sue inchieste. Non capisco. Uno è Brunotti e l'altro chi è? E che ne so? Brumotti. Non lo so. Conotti cosa finisce? Conotti. Cioè, chi è l'altro infame? Dimmi. Fa la rima, frate. In Italia ci stanno d'infami. Quali sono gli infami? Uno è Brunotti. L'altro chi sarebbe? Avanti. E l'altro chi è? Non lo so, dimmelo tu, non mi piace. Rima, I quiz, sono io, Cruciani e Brumotti. Però Cruciani e Brumotti non fanno fa rima. Ci stanno due infami, uno è Brunotti e l'altro è Cruciani. Vattene a fanculo, va, Alex. Roba incredibile, ragazzi. Simona, ci siamo? Ci siamo. Quello che è intervenuto sicuramente sarà avvenuto perché, sai, sono anche un po' buciardelli questi. Brava, artisti, giusto. Quindi forse lui è il primo che ci va a mignotte, come dice assolutamente lui. Sono d'accordo con te. Questo quindi... odio nei confronti delle mignotte. Hai preso questo fallo di gomma? No, ragazzi, non mi fate fare queste cose. Su, magari vi posso dire, vi posso spiegare. Com'è il rumore? Qual è? Ma scusa, tu fai la prostituta dei pompini e adesso non mi fate fare queste cose. Ma adesso diglielo tu. Diglielo tu, però. Naturalmente, la televisione e la radio sono realtà. Esatto, sì, altrimenti diventa un racconto piatto. Esatto, dai, su. Il rumore, falle fare il rumore, fai un rumore, Simone, i tuoi rumori tipici. Il rumore mi dovrei mettere una cosa in bocca. È quello devi fare. Prendi questo fallo di gomma, ti prego, ti scongiuro. Andiamo verso la conclusione. Prendi questo fallo di gomma per un attimo. Dai. Ma non posso, ragazzi. Il rumore tipico di avere qualcosa in bocca. Ma come fai? Qual è il suono gutturale che viene fuori? Il suono gutturale. Il tuo suono gutturale è incredibile, come la prostituta dipende da quello che metto in bocca, non sono sempre uguali i rumori. Questo è vero, tu sai che fallo. Il deep throat lo pratichi? Il deep throat? Sì, certo, sì, assolutamente deep. Il tea bag, sai che cos'è il tea bag? No, guarda, io sono proprio ignorante. Allo scro, sì, perché fai e basta, giustamente. Hai per protagonista lo scroto, si chiama tea bag. Assolutamente, lo scroto. Tu vai sullo scroto? Vai sullo scroto? Certo. Tutto. Cioè, assolutamente. Cioè, la tua specialità, perché tu sei così famosa per essere la prostituta dei pompini? Questo è il punto fondamentale. Cioè, perché come li faccio io? Ho capito, però questo tanta gente potrebbe dirlo, però. Tanta gente. Qui dicono tanta gente che è venuta a trovarmi. Ha riscontrato che è vero quello che dico. Quindi... Ecco, ai tempi del Covid tu dici non avere paura, cioè sostanzialmente i tuoi clienti vengono con la mascherina oppure no? Assolutamente sì, vengono con la mascherina. Allora, hai timore, li faccio igienizzare, gli faccio togliere le scarpe. Pensa, che rottura di coglione. Come fai a uccidarsi? Io mi assicuro che sono perfettamente profumati come voglio io, così mi metto in bocca tutti belli, profumati. Ma uno, però, questa preparazione, Parenzo, non è un po' anche a Gottardo, interpello Gottardo che forse tu non sei, tutta questa preparazione, cioè la mascherina, stare lì, il nipote dell'ex sindaco, è l'antisesso, scusami, lo fa, il nipote dell'ex sindaco, in questo periodo bisogna fare così, ragazzi. Scusa Gottardo, se uno arriva lì con la mascherina deve essere tutto preparato, pulito, ti si ammoscia dopo un secondo o no? Ma non è vero, assolutamente no. Allora, se uno è davvero eccitato non si fa ammosciare da nulla, e lì si vede la differenza tra quello che gli piace veramente e quello che fa finta. Il nipote dell'ex sindaco. Devo dire che mi lascia abbastanza perplesso il fatto che però la signorina non dia una dimostrazione fonetica delle sue capacità. E soprattutto c'è un'altra cosa, che la signora Simona non ingoia, questo è fondamentale, mi sembra, non ingoia. No. E spesso lo fai anche con una cosa igienicamente corretta, però una mignotta che ingoia. Devi sapere che la spermidina escort, però ci chiamiamo escort adesso. Vabbè, uguale, va bene, la mignotta, dai. Ma in senso positivo, dai, mignotta. Fa pagare, scusi, un suo pompino quanto costa? È questo che fa la domanda, è il nipote dell'ex sindaco di Padova, è giusto per questo. Diciamo che io non chiedo molto perché voglio che tutti vengano a trovarmi. Vabbè, ma mignotta democratica, ma sempre mignotta, esatto. Perché se si fa pagare la marchetta. Ma i 100 euro si sganciano, no, oppure da 50? No, da 50, si parte da 50. Pompino a 50, e quando è che si alza la cosa? Tariffario. Si alza quando vogliono stare un po' di più, quando lo vogliono più lento. La tariffa oraria. Un po' più da porno, ecco, perché insomma. Da porno. Da porno. Ma la differenza, ragazzi, sì. Ma il CPC, signora CPC Simona, lo pratica? Il CPC? Ma io questi termini non CPC li conosco. Guarda, è molto semplice, è culo, palle, cazzo. Cioè dire il passaggio tipo rimming, capito? Allora, cazzo, il rimming assolutamente no. Rimming assolutamente no. Per via di una malattia che ovviamente si può prendere facendo questa pratica. Non lecchi il culo. No, inizio però dalle palle, perché sono le cose più belle da mettere in bocca. Non c'è dubbio, però belle, amica mia, tu sostanzialmente qualche volta lo fai anche coperto, no? Coperto. No, assolutamente, mi rifiuto. Rimming no, ingoio no, ragazzi, no. Il pisello più strano, ragazzi, che ti è capitato, qual è stato il pisello più strano che ti è capitato? Le grandi interviste. Dimmi. Guarda, il pisello più brutto? Sì, più brutto, più strano. Parliamone. Uno tutto storto, che non sapevo che da dove iniziare. Addirittura. Come prenderlo in bocca, perché era talmente strano che non sapevo cosa fare. E veramente, lo sono guardato e ho detto, adesso che faccio? Com'era storto? All'insù, all'ingiù, a sinistra, no, a destra? Era strano. Sicuramente poi ho visto sul libro che ci sono delle malattie anche del pene. Che portano al pisello storto. Si possono curvare. Questo era molto curvo, questo era molto curvo. E questo era troppo curvo. Era troppo curvo. Ti ha fatto quasi schifo. Beh, no, schifo. Però, no, però Jessie, Jessie, sei collegata, Jessie? Amica mia, sì, Jessie. Sono collegatissima. Ciao Jessie, volevo sapere se avevi provato quella cosa che ci dicevi fondamentale, che ci ha fatto concentrare per giorni e giorni, cioè dire il pissing nel naso, se l'hai provato. Purtroppo ancora no, però ho già parlato con proprietario di Lega il Porno e quindi la prossima volta lo faccio. La prossima volta lo fai sicuramente. La prossima volta lo fai. Non si preoccupi, signora, che nessuno le toglie il copyright o le porta via la grande idea. Non si preoccupi. Questa signora è una grande idea. Insieme stia a tranquilla, no, stia tranquilla. Noi vogliamo essere aggiornati su questa cosa qua. Cioè il pissing nel naso, perché Jessie J ha un'idea. Attraverso, cioè è sicura di che cosa? Che attraverso questa un'idea. Pratica a che Steve cosa Jobs si arriva? Un'idea. Aspetta. No, lei. A cosa lei si arriva? Ma Jessie, sì? A che cosa si arriva col pissing nel naso? In che senso cosa si arriva? Si arriva che poi hai una bella immaginazione che ti esce il piscio dall'altra parte del naso, quindi tu pisci destra e ti esce sinistra. Ma capirai che cosa è questa, dici, potrebbe essere una grande sensazione, dici tu, no? Ma sì, per quello che lo fa e anche per quello che lo sta guardando. Anche per la sua, che lo sta guardando. Chiedo scusa, la sua non è l'invenzione di Steve Jobs. Mi permetto di segnalare questo. E anche il quadro la che devi fare, anche il quadro che devi fare. Mi raccomando, col quadro, Jessie. Il quadro. Ma assolutamente, ho già parlato con Giorgio Grandi, quindi lo facciamo. Chi è Giorgio Grandi? Io conosco Giorgio Grasso. C'è, allora c'è praticamente con lo squirting colorato si fa un quadro, giusto? C'è una realizzazione di un'opera d'arte. Sì, però squirting dal culo, non dalla patata. Molto bene, squirting dal culo con realizzazione di un quadro. Chiusura finale su questa cosa. Tu, il pompino ti piacerà sicuramente. Che rumori fai durante il pompino, cara Jessy? Parli con me, sì, signor con te. Cruciano? Sì, con te. Fai del rumore quando pratichi allora, il pompino? In solito così. E che? Non sento niente. Qual è il rumore della bocca? No, il rumore della bocca, si sente? Ah, ok, il rumore della bocca, non del vibratore. No, della bocca, no. Devi mettere la bocca là, se no non si sente, amica mia. Cioè, aspetta, più o meno... Com'è? Molto chiaro, molto chiaro. Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.